carina! Guarda lei, tuccala! Posso venire un po' alla volta? Sì, ma guarda, prova! Io ho già dato! Guarda! Una settimana qua è proprio, però siete arrivati in tempo perché erano, stava covando perché ci vuole 21 giorni e proprio sta, sì, una settimana hanno. Quando si fa grosso così è per difendere i pulcini dalle altre che non vogliono che si avvicini. Io facendoli così, ci avvicino. Pulcini! Uova ci sono! Faranno pulcini!